Claudio. Avanti, che è? Avanti su 10. C'è qualcuno su 10? Ciao, buonasera, chi sei? Sì, mi hai sentito, ciao Francesco, così, dai, che a me piace chiamare per nome le persone, dai. Se poi ce ne sono altri di Francesco, a quel punto si usa il nominativo. Sì, la radio è chiara, è 5, forse è leggermente bassina, forse, aspetta, te lo dico con esattezza, così ti dico se sei più basso del normale. Poi a parlare, dai, vediamo un po'. Sì, ok, va bene, sono lontano dal microfono, ma prima ero lontano anche con te, per essere stato già guarda, se riesci a alzare un pochettino, se è leggermente bassina, è chiara, però se è leggermente bassina, e poi vanno fatte delle regolazioni più fini, dai. Roger, non so, forse mi si chiede così, eh. Allora, prima di tutto dimmi con che apparato sei, così capiamo qualcosa. Sì, sto facendo pure il digital. Ecco, ICOM, così? ICOM. C'ha il guadagno del microfono, il Mickey Gain ce l'ha quell'apparecchio? Sì, ce l'ha, ce l'ha. Prova a sollevare un pezzettino, dai. Ok, vedi un po', adesso, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova, come adesso? Sta un po' distorcendo. Ma è stato il livello del microfono o il livello dell'apparecchio? Il livello dell'apparecchio. Però non mi piace, perché dovresti salire, prova a sollevare ancora un pochettino, vediamo se saturi, prova a alzare quello del microfono, dell'apparecchio, dell'ICOM. Ma il processore è inserito di quell'apparecchio? Non c'è un tasto dove c'è il sito approach? Io qua sto guardando, però no. Non dimmi il modello che provo a cercarlo su internet per capire di cosa stiamo parlando. Il modello te l'ho detto, ICOM 720 Alfa, io chiamo Alfa, il codice, 720 A. Aspetta, guardo le fotografie, aspetta un attimino, guarda se c'è una fotografia ravvicinata per vedere se ce l'ha, deve averlo per forza il processore, aspetta un attimo. No, no, sembra che non ne abbia, e il microfono a quanto ce l'ha il microfono del, il livello del microfono, il tasto in alto a sinistra, dove c'è scritto Mickey Gain dell'apparato, a quanto è? La manopolina è al centro, è al centro. A metà, perché qua bisogna fare delle prove. Prova a sollevare quello della Dunis, del 908. Come qua? Sì, non sono molto intorno, vedo un po' come adesso, 1, 2, 3, prova. Bisogna fare delle regolazioni. Hai sollevato quello del microfono adesso? Sì, sì, quello del microfono. Adesso... quindi siamo più di metà, quasi a diciamo un quarto, due quarti e mezzo è la monopolina, Ah, qua bisogna alzarti un po' il livello della radio e poi fare tutte le regolazioni. Prova a alzare quello della radio, il mic gain della radio, mettilo oltre la metà e vediamo un pochettino. Ciao Claudio, ben sentito comunque. Ciao, buonasera. Cosa sta usando? 908. A quanto ce l'hai il 1005? Il 1005 a quanto ce l'hai? 1540-270. Allora, scegli il però tu dico una volta solo, porta il 1000 a metà. Il 1000 è a metà. Ok, il 270 quant'è? Il 270 è diciamo sopra, al massimo, a livello su. Mettilo bassa, mettilo meno della metà. Ecco qua, metto meno della metà, ok. Il 2000 quanto ce l'hai? Il 2000 quanto ce l'hai? Il 2000 è a metà. Mettilo più basso della metà. No, ma tu cosa c'è? Con 14? Yeah. Ma quello tuo o quello dell'altro giorno? No, quello mio. Ok, meno della metà è 2000. No, va bene, portalo più della metà. Ok, più della metà. Sali ancora. Ok, 1, 2, 3, prova. Dimmi gli altri adesso, Francesco. Allora, il l'abbiamo già detto, sì, il 1000 a metà, 540 è sotto, sotto in basso, il 540. Mettilo a metà, 540. Ok, a metà, 540. Ok, perfetto. Adesso il 1000, mi hai detto dov'è? Il 1000 è a metà. Abbassa appena il 1000, meno della metà. Ok, vedo un po' come lo so, vedo tra poco. Il 270 mi hai detto dove l'hai messo? Il 270 è meno della metà. Portalo a metà, vediamo, all'altezza del 540 portalo. Ok. E parla però, no, ok, parla. Allora, vedo un po' 1, 2, 3, prova, come ho detto, 1, 2, 3, prova, vai. Cioè, troppi bassi, adesso mi ricordo se il 1000 mi hai detto dov'è? Il 1000 non è a metà. Mettilo a 0 il 1000. Ok, a 0 il 1000, 1, 2, 3, prova. Perfetto, ok. Adesso, in quel microfono, se stai attento, dove c'è l'accensione? C'è scritto love, e leggi cosa c'è scritto lì. Allora, qua c'è scritto un interruttore, uno c'è scritto Entities, l'altro è Charlie Oscar Mike Papa, l'altro interruttore è equalizzatore, l'equalizzatore in che posizione è? Acceso o spento? L'equalizzatore è on, diciamo, quindi tutto. C'è scritto on, off, face, dove, in on o in off? Allora, l'off è in basso di tutto, in basso. Quanto è posizionato l'interruttore? On, in alto, sì, perché c'è un alto on, media, a metà, capito? Sì, aspetta un secondo che faccio entrare. Togliono del tutto l'equalizzatore, mettilo a zero. Non esce se chiude l'equalizzatore. Mettilo com'era. Se lo spengo, quando l'equalizzatore lo sa, non si può spingere. È perché stai spegnendo il microfono, Francesco. Quindi l'equalizzatore non è acceso, portalo ancora in alto l'equalizzatore. Tutto su lo devi portare, no, tutto in alto. Tutto in alto, ok. Il comp è spento o acceso? Il comp è media, a metà. Mettilo al massimo il comp. Massimo di torcia. Allora, vogliamo. Adesso al massimo, 1, 2, 3, prova. Gatto di torcia. Aspetta, faccio entrare Gianni, avanti già. Aspetta, regolando il microfono a Francesco. Lascia acceso il compressore in alto. Adesso vai nuovamente sui parametri. Parti dal primo parametro da sinistra. Che parametro è? 1000? Il primo parametro da sinistra è 2000. Ok, il 2000 2000, mettilo a zero completamente. Poi ti dico io come salire, mettilo a zero. Mettilo a zero, 1, 2, 3 sopra. Il 1000, mettilo a zero. Il 1000 è già a zero. Il 540, mettilo a zero. Ok, 540 a zero. Il 270, mettilo a zero. Tutto a zero, ok. Adesso rinizia dal 1000, da sinistra verso destra. Il 1000, il 1000, fallo salire di 3 tacche. Ok, di 3 tacche. Ascolta, se noi ci spostiamo, se volete fare questo qua, vai al canale 20. Al canale 20 vai, Francesco. Ok. Scusa un attimo, non batteggiarmi, eh? Poi non ti preoccupare. Sì, posso anche andare in fondo. È vero? Perché sei basso di radio già? Sono basso di radio. Non ti sento un po' lontano, come che se stai parlando lontano dal microfono. Ah, che cos'è? Che ha cambiato radio? Via! Ah, ti ho detto, ti sei allontanato dal microfono, ti ho detto. Aspetta un attimo, sto controllando se ho toccato qualche cosa, fai macchino. Così va bene, è vero, stavo spolverando, invece ho toccato il macchinino, va bene. Sì, infatti mi sembravi più basso della normale, infatti ha giusto. Sembrava che stessi parlando in viva voce col cellulare da lontano. Oh, lascia fare. Che oggi ho fatto mettere la fibra ottica di Vodafone e non mi va nulla, non riesco a collegarmi con la wifi. Ho telefonato già 5-6 volte, mi ha detto fai questo, resetta, ho fatto tutti dei passaggi e niente da fare. Adesso domani se è così, gli dico di venire a prendersi tutto breve e mi cambio gestore, perché non è possibile a casa, cioè mi ha detto che non mi dava nessun problema, che era automatica e diretta. Grazie a Bibi, ce l'abbiamo noi in officina Vodafone, lascia perdere, noi abbiamo la fibra quasi 2 anni. Anche tu veramente sei la più lenta, giù mai la DSL è la più veloce, me l'ha presa per il fondo, infatti adesso è che non ho tempo, ne attacchiamo tutto e ritorniamo, vabbè ti scali, neanche a moto ci torneremo più, prendiamo team e basta, perché sono la presa per il fondo questi di Vodafone. Siamo stati 21 giorni senza linea telefonica, ci hanno dato un numero per fare trasferimento di chiamata, una chiavetta, un tunnel, i problemi che ci hanno creato questi scelti. Infatti lasciamo perdere. Poi la riga lentissima, cioè dice la riga 100 mega, magari lascia perdere. Ce l'abbiamo soltanto adesso perché non ho tempo, c'ho cose più importanti da fare, se no l'avrei già attaccato da più di un anno Vodafone. A parte i disagi che ci hanno creato, ogni tanto si intripa, problemi, devi resettare, fare, mamma mia, lasciamo. Poi se ti attacchi 2 o 3 utenze è finito, mi. Lento, lento, lento. Pensavo di fare qualcosa di meglio, cioè di velocizzare le cose, tu mi stai dicendo che no, ma tu nella zona tua ce l'hai, o la linea magari non arriva con un segnale forte, boh. A me mi ha detto lei è fortunato, non paga né installazione né nulla perché avete già installato al portone la linea. Sapere se ci passano giorni, ecco, no, è automatico, dovevi far passaggio e automaticamente può usare il telefono, sì, domani. Allora tieni presente che non è vera fibra, la fibra magari a 200 metri da casa tua, a 100 metri, e il pezzettino con le canalizzazioni che hanno fatto nei portoni ancora non sono attive, forse l'anno prossimo se Dio vuole, perché le cose che sono partiti da qua, Sassa è partito da qua, dalla parte alta a scendere, è una presa per i fondelli, perché la centrale io ce l'ho sotto casa, nel portone di casa, la cosa, lo sportello della cassetta, e di lì è già tutto predisposto, però la centralina è a 200, diciamo, vabbè, non 200 metri, a 50 metri da casa mia, la linea principale che poi serve tutta la città, e da lì il pezzettino, quei 50 metri sono in cosa, in rame, non c'entra niente, diciamo, loro ti garantiscono 100 mega, ma navighi intorno ai 40, 30, 50, dipende, anche 70 in certi momenti, quando c'è un po' di intasamento di roba anche a 20 navighi, è una presa per i fondelli, perché quando tu ti attacchi il cellulare vicino, io ho la wifi, 2 o 3 cellulari, più la linea telefonica, unica, il posto, tu vedi la velocità si rallenta, che è un modo impressionante. Vabbè, in officina sì, in casa comunque non sono tutti questi problemi, perché io all'inizio attacco il cellulare, il computer e basta, non è che attacchi tante cose, ma speriamo bene che si riprenda adesso, ho telefonato 3 volte, prima mi ha fatto uscire in testa questo dubbio, gli ho detto voglio parlare con un operatore, a me queste voci qui da Roma mi stanno sulle palle, c'è poco da fare. C'è già Rubredo, puoi fare Aerotest si chiama tu, e vedi perché velocità sta navigando, schiacci, c'è scritto vai e ti dà la velocità di cosa, di navigazione, e quello non inganna. Ma dove? Nella... nel telefono? Lo puoi fare, se ti colleghi alla wifi lo puoi fare col telefono o col computer, se sei connesso via wifi alla rete fibra col computer o via cavo, diciamo, vedi tu come c'è la rete, io non lo so, cerchi Eurotef e schiacci, ti apre l'applicazione e poi c'è scritto vai, c'è una specie di contachilometri, ti dà la velocità di coso, ti dà un load e ti rendi conto l'effettiva velocità di load, ma a 100 neanche molto ci arrivi. Oh yeah. Vabbè. È un casino, sia col telefono sia col cellulare. Con cellulare me ne stanno rubando dei soldi, me con 20 euro invece che mettete 15, cazzo, non c'ho mai, alla fine non c'ho mai giga da consumare. Detto, cazzo, ma scusi, se non mi sono 20, non so, ma ce l'avevo l'altra volta, ci abbiamo preso dei soldi che avevamo sentito l'altra volta. Se li metto sempre 20 invece che 15, scusi, sono sempre 5 euro in più. Ma tu cosa sei? Con quel gettore sei? Vola. Cellulare parlo. Cosa? Del cellulare sto dicendo. Sì, vola forse. Anch'io sono Vodafone da sempre, ma ne ha preso per i fondelli. Io ho una scheda particolare internazionale, pago un po' di meno rispetto all'altro, mi hanno regalato un anno di internet illimitato, non so per quale motivo, comunque vabbè, forse lo fanno per gli stranieri e cose del genere, e ho una presa per i fondelli. Tu fai una ricarica di 20 euro e te ne danno 19, la fai da 10 e te ne danno 9. Se te ne vai a Kena, però dipende se ti interessa, io ho fatto Vodafone solo per questioni di coperture, quando vai fuori all'estero, eccetera, è l'unico che non ti crea problemi. Però se tu vai a Kena ti rimangono 3 euro dal mese precedente, te li danno in accumulo il mese successivo, e quella è la cosa di bello, e più c'hai i prezzi più bassi di tutti, più basso di Iliad pure. Kena, ma Kena che cos'è? Della Vodafone? No, Kena è della TIM, Vodafone si chiama io quello della Foda, io ho anche una scheda, vabbè, per altre cose, della IOC l'ho fatta per antagonisti, come antagonista di Iliad, che ne stava portando via tutti i clienti, allora mi hanno fatto anche loro un gestore forfettario che utilizza il coso, le linee di Vodafone, la copertura quella a Vodafone e ti fa dei prezzi stracciati, però attualmente i prezzi più bassi ce li ha Kena, che è della TIM, c'ha un'ottima copertura, e ti c'ha di buono che quando ti rimangono 3 euro dal mese precedente te li passi al mese successivo, mentre Vodafone se tu non telefoni e hai speso 20 euro non ti tolgono neanche una lì, cioè non hai speso niente, loro non è che te li accumulano quel coso, te li mangia. Sì, sì, è così. Ascolta, una fa che una scheda telefonica, mi hanno detto questi qui sono dei giga che li stiamo regalando noi in omaggio, ma come si usa questa scheda, no? Stai attento che la butti dura, che ti fanno per dire un mese gratuito e poi ti rimane automaticamente bloccati, ogni mese te ne buttano per dire 5 euro, 6 euro, dipende da quanto c'è, e devi fare la disdetta, devi fare un numero verde oppure entrare su internet per fartelo togliere, se no ti rimane a neridina anche se tu non li usi i giga. Ma se io non attivo questa scheda rimane? No, non attivare niente, lasciati il pacchetto che c'è, il tuo standard è buono, fare tutte queste applicazioni che loro se ne vogliono di lì, poi ti trovi a fine mese per dire, vai a telefonare, tu adesso 20 euro di ricarica per dire l'abbonamento e 15 euro, ce ne sono altri 5 euro di questa cosa qua, non ti bastano i soldi per pochi centesimi, non puoi telefonare e non puoi utilizzare internet, lascia BV, è una presa per i fondelli. Poi a fatta oggi ho trovato un ingaggio, poi sono tutte le diverse persone che non sono contente con Vodafone, lo sai? Sì, ha registrato, allora Vodafone l'unica cosa di buono che c'ha, te lo dico perché io viaggio, vado da un sacco di parte, è la copertura, è leggermente superiore a TIM, solo quello c'ha di buono, per tutto il resto è il peggiore gestore che c'è, che esiste, come convenzioni, come prezzi, eccetera eccetera, è il peggiore. Io lo faccio, ti ripeto, solo perché mi interessa quando mi muovo in bus, sennò ci avrei mandato a casa da 20 anni, io sono da quando era Omnitel che poi è passato a Vodafone, dal 95, sempre lo stesso gestore ha avuto. Avanti il break. Sì, scusate se mi prometto, ma siccome, Gianfranco, ciao a tutti, siccome la sto sentendo ogni giorno questa storia, Allora la gente non vuole capire, non vuole neanche leggere. La Vodafone sta rubando soldi, ha avuto anche varie contestazioni da parte del garante delle comunicazioni. Tu guarda, tu prova a passare da un gestore Vodafone a un altro, e improvvisamente si è fatto anche il giorno prima una ricarica da 50 euro, sparisce e non si spiega il perché. Quindi quello che state dicendo già da qualche, da più di 6 mesi e passa, una cosa nota, che si stanno fregando i soldi a un casino di gente, sono dei truffatori che non è basta. Riguardo al discorso che state facendo poi di Kena e anche OK eccetera, anche lì dovete stare molto attenti, perché non sono dei gestori, sono degli operatori cosiddetti virtuali, e siccome si appoggiano a Vodafone, a TIM ha tutto un interesse, dopo che avete fatto il contratto, a ridurre le velocità per dare priorità al gestore non virtuale, quindi TIM e Vodafone. Quindi occhio, perché sennò vi incappettano anche lì. Gli unici gestori che ci sono veri, cioè che possono garantire la velocità, è esattamente TIM, Vodafone, Iliad, e poi me ne sto dimenticando sicuramente qualche altra, e Wind, ecco, sono gli unici che possono garantire la velocità. Tutto l'altro è tutto qua, lasciamo perdere. No, non stiamo parlando di telefonia, ma stiamo parlando di linea di casa. Kena e TIM, la stessa cosa, non cambia niente, l'hanno fatto solo come antagonista di Iliad per togliere i clienti. Infatti quando tu fai un abbonamento di Kena, se sei cliente Iliad ti fanno a 4,99 al mese, se no paghi 7,99, c'è una differenza, la stessa cosa, come io, che non è un gestore virtuale, è la stessa cosa, invece non stiamo parlando di linea di casa, stiamo parlando di gestore di cellulare. Io sto parlando di gestore di cellulare, infatti. E qui utilizza gli stessi ponti, Kena utilizza gli stessi ponti di TIM, come Iliad utilizzava i ponti di 3 di Wind, adesso sono fusi, Iliad sta iniziando a fare i ponti per conto proprio, eccetera, eccetera. Però Kena è, diciamo, la sottovacca della TIM, come la IO e della Vodafone. L'hanno fatto solo come antagonista, come ha fatto l'Enel con l'Enel Distribuzione e l'Enel l'altro dell'energia elettrica. La stanno facendo per cercare di non avere più problemi di mercato, perché perdevano clienti. Secondo te perché li perdevano i clienti? Il fatto è che quelle lì virtuali sono sottoposte, se ti leggi i rapporti tecnici, questo io l'ho fatto, appena le viene bene Vodafone e TIM segano, capito? Quindi la velocità che ti promettono sul cellulare, stiamo parlando della RSL, guarda, neanche, è meglio non parlarne nemmeno, ti fottono. Quindi bisogna stare molto molto attenti, perché c'è gente che è rimasta inchiappettata. Qua magari in Sardegna si nota di meno, ma fuori certi colpi, oi, a noi ci rubano solo i soldi e nessuno protesta. Scusate l'interruzione, riprendi Gianni, occhio, stai attento. Io mi hai fatto Emi, che ho messo questa fibra ottica pensando di essere più veloce, di andare più veloce, ma a quanto mi stai dicendo Roberto dice che l'ha fregata. È probabile, ma guarda, sono delle carogne. Da me ne hanno fatto tutti i colori, dopodiché quando hanno finito di giocare l'ho detto, signori cari, andate via, le ho fatto spendere migliaia di euro perché hanno dovuto fare tutta la tratta stradale, perché qua non siamo in città, togliere un paio di pali, e adesso tra l'altro li stanno sostituendo tutti senza cambiare i cavi, che dovrebbero cambiare i cavi, ma sono delle cose anche tecnicamente parlando allucinanti, da ridere, perché sono degli idioti veramente. La cosa più vergognosa, se non lo sapete, nel 2003 la Telecom aveva fatto la fibra, già iniziato a fare il discorso della fibra, ha fatto tutti i lavori, tutte le tracce, tutte le derivazioni eccetera eccetera, me compreso, casa mia, ha fatto dei lavori eccezionali, li ha fatti la Siete per conto della TIM in questo caso. Questi lavori sono stati bloccati perché avevano scoperto che si potevano utilizzare anche le linee e il dubbio telefonico per trasmettere a una certa velocità, ormai adesso quella velocità è stata soppiantata, e ha preso in mano la Siete di nuovo, si è fatto un'azienda per conto proprio e non può utilizzare le linee della team, e per quello ho dovuto fare tutto, sta distruggendo tutto Sassari per fare questo cacchio di lavori che, se li vedete, sono ridicoli. Basta vedere cosa hanno combinato a casa mia, nel senso nel locale del portone di casa mia, che li ho riso in faccia. Si sono permessi di entrare, ho detto: chi vi ha autorizzato a entrare qua in una casa? Sì, ma noi stiamo facendo, no, io voglio un'autorizzazione di un responsabile per iscritto con il TV, ma qua lei dice la tessera esecutiva ora, e poi sono venuti con un responsabile, tutto quanto gli ho permesso di entrare, ho detto: chi vi ha autorizzato a entrare nel portone in una proprietà privata? Ma lo stiamo facendo a tutti, ho detto: lasciate perdere. E tu devi vedere i lavori che hanno fatto, sono ridicoli. Ho detto: ma è possibile che non utilizzate le linee già esistenti? Ci sono già gli sportelli, diciamo, la centralina, tutto già pronto, ma lavori di altissimo livello e qualità fatti per conto della team, ma quelli non possiamo utilizzare. Se vedete i lavori che sta facendo la Sielt, è ridicolo, dice: noi siamo una ditta tale agonista, non ci permettono di utilizzare, stanno buttando soldi, stanno facendo il doppio lavoro di quello che era già pronto. Una dentro il portone di casa mia ci sono due centraline, una vecchia della team, che è ancora bella, bellissima, fatta bene con gli sportelli, adesso la fate queste cacche col corrugato esterno, tubi di... un lavoro di cacca, in parole povere. No, no, qua internamente problemi, dalle scatole del portone hanno preso il filo, eccetera eccetera, hanno fatto tutto internamente, non si vede nulla, poi hanno preso le scatole. Stai parlando, Robè, di Open Fiber? Quelli che ha fatto, che sta facendo la Siete. Non è che quello ha fatto tutto internamente, però tu devi vedere le cassette dove ci sono le centraline, ridicole, quelle della team erano spettacolari, tutti con i cose, i cablaggi fatti in un modo spettacolare. Adesso, cacchio, c'è un passaggio che non potevano bucare perché passavano dei tubi, eccetera, e di lì hanno fatto una specie di corrugato con l'antimartello, un ponte hanno fatto, ma una cosa vergognosa. Poi gli sportellini fissati a lamina a futo, quello della team era a filo, hanno tagliato i mattoni con la proprio perfetto, non vedi nessun coso, addirittura hanno fatto un piccolo danno all'interno, gli ho rifatto fare tutto nuovo, le tasse dovete tavaccare tutto perché avevano fatto ad aver lesionato all'interno di un altro locale nostro, gli ho fatto riprendere tutto, hanno fatto lavoro a regola. Chi chiederà Siete, forse non lo so, il particolato sarà molto più scaccino, ma tu vedi come lavorano, una cosa vergognosa. Ho detto: ma usate le linee già pronte, i tombini, i pozzetti, non possiamo usare niente, non ce lo permette il team, questa è l'Italia che lavora. No, è l'Italia truffaldina quella, e quindi lasciamo perdere. Ok, ma ritorno in letargo, riprendi Gianni. In letargo, quindi coricata. No, sì. No, sto sempre, come al solito, facendo della roba, nella fattispecie una roballazione digitale di... insomma, tramite un registratore particolare digitale. Tutto lì. Capo, di diverti, allora... sentiamo dopo se puoi entrare. Andiamo a fare una cosa al volo prima di andare via. Quell'apparecchio famoso Barrett, se vi voglio chiedere una domanda, ma non parlandone qua, ma riparandone a quattrucchi, Claudio, c'è il tuo numero? Eventualmente quando ho 5 minuti di tempo, se non ti disturbo, ti volevo chiedere delle informazioni. Sì, glielo chiedi eventualmente, ma tieni presente che mi sto occupando di tanti degli apparati nuovi, in parole povere, no? Che sono talmente complessi che praticamente ho dovuto, come farebbe uno con un computer, no? Ho cancellato tutto l'hard disk dei ricordi per dedicarmi a questi apparati che sono una disperazione. Non stiamo parlando di regolarne la radio, di regolarne la potenza o il microfono, queste cavolate da genere, stiamo parlando di capire se il tipo di bit che esce dall'apparato è perché non viene riconvertito in termini di segnali o di fonia, ancora peggio. Quindi sono proprio curugabo, secondo quello che mi devi chiedere non ti so neanche rispondere, guarda. No, era soltanto perché ho visto, sono state fatte delle modifiche, capire la logica a cui eventualmente intervenire per riportarlo all'origine. Guarda, non so se ci sono delle modifiche, tieni presente che sono apparati recuperati e quindi può essere fatto di tutto di lì. Se tu guardi, anche il frontalino non è il suo, sono stati applicati perché sono apparati, come dire, usati e quindi magari il frontalino era rotto, e quindi hanno messo questi che sono sostitutivi, tutto lì, però poi tutto l'altro dovrebbe essere originale, anche il GPS, se vedi come è piazzata, molto grande, quindi è una cosa un po' particolare. Tieni presente che sono apparecchi fatti per durare 50 anni e quindi non è proprio tutto miniaturizzato, ecco. Sì, no, ho visto, no, come costruzione erano i militari, niente da dire. No, volevo capire se le hai fatte tu le modifiche o te le hai preso già così tu. No, anche a me quell'apparato a mia volta mi è stato dato, tutto lì, quindi le modifiche, io ripeto, l'ho usato molto, molto poco, perché avevo già dell'altro, capiscimi, al volo, e quindi utilizzavo quello nuovo, perché anche questi adesso che sono arrivati da qualche mese mi stanno facendo impazzire. Quindi poi ne ho un altro che è un po' parente di quelli di però più moderno, che è della Vertex, sempre professionale, che è quello proprio un gioiello, insomma, anni luce anche da quelli che stanno venendo adesso, per dire. Questi qua in questo caso è tutta roba nuova, quindi non è roba come in quel caso usata. Tra l'altro ne ho un altro usato che funziona ancora, che è uno spalleggiabile, un Oracle, che è bellissimo, sarebbe anche un peccato darlo, anche perché tanto non lo vuole nessuno, quindi, cioè non lo vorrebbe nessuno. Perché? Che modello è della racca? No, io ce n'è uno, un bel salto alla racca, un ricevitore professionale, mancato 4 volte, 2 volte il 4,40, sia di altezza che di lunghezza, apparecchio di riferimento, diciamo, è un ottimo apparecchio. Da laboratorio, tra l'altro, per fare delle misurazioni, c'è un sacco di... No, a me piacciono come ricevitori, più che altro con le radio. Scusa Gianni se stiamo monopolizzando. No, mi sono sbagliato, scusa, non è un racca, mi stavo confondendo con l'altro. È un Classman inglese, ha fatto la guerra, era usato dalle truppe speciali, diciamo, dai SAS, Service Air Squadron, una cosa del genere, e praticamente è uno spalleggiabile HF, è uno spettacolo, guarda, è tutto in alluminio, si può anche immergere in acqua, o si poteva immergere in acqua, pesa un raio perché c'è anche l'affare da mettere sulle spalle, e giocando io ti posso dire che siccome c'ha appena 25 watt alla massima potenza e 5 alla minima, non mi ricordo se erano in 10 metri o in 20 metri, ho detto due parole al microfono, cicù, cicù, cicù, e mi ha risposto subito l'Argentina. Ho detto che cacchio, con l'antenna, cioè con le antenne tipo tipicamente militari, in vetrodesina che si attaccano, che diventa piccola quando la smonti. Poi ingegnosa, c'è un cordone che tu tiri il cordone come se faresti qualcosa del prete, a posto di salire la gonna sale l'antenna. Guarda, super ingegnosa. Ok, avanti Gianni, scusa il monopolio. Non vi preoccupate, parlate tranquilli, io so anche ascoltare, no? Non so di quelli che si lamentano perché state parlando, a me piace anche ascoltare. E questo è diventato a quanti volt, Gianfranco? 24 volt, basta metterci dentro, che tra l'altro io ci avevo dentro, ci sono tre parti, due batterie al piombo, normale, tipo quella dell'antifurto. Ce ne metti due nel tuo contenitore e tiri a campare, perché quelle originali, nickel cadmio, non si trovano più, capito? O al limite potresti mettere quella a litio, ma può essere un problema poi ricaricare. Comunque è un apparecchio che consuma veramente poco e da tanto. C'è il tuo microtelefono, come tutta la roba militare, attacchi un attacco normale e un attacco dati, perché anche quello lì già poteva trasmettere diciamo segnali particolari, ecco. È bellissimo, guarda, se tu vai su un sito che li vende, si chiama Radio Surplus, Classman 320 dovrebbe essere, te lo guardi, c'è una forma di una tartaruga ed è un gioiello, c'ha il suo accordatore manuale che è veramente notevole, non ci sono parole. Figurati che c'ha le etichette della insomma della RAF, ecco, Royal Air Force dovrebbe essere, con scritto le date della verifica, perché anche quando sono in magazzino devono essere tutti controllati gli apparati. Quindi insomma un oggetto molto bello, che figurati che molte persone che l'hanno visto se l'hanno messo in spalla e mi hanno chiesto di fare le fotografie con questo apparecchio. No, questo lo conosco perché ho acquistato del materiale, ci sono belle situazioni, anche apparati di laboratorio, strumentazione eccetera eccetera, antenna, ho comprato una bella antenna nuova di pacca, una direttiva di lì, da queste cose, tutta anche col palo in resina, bellissima, una costruzione spettacolare, tutta ripiegabile, fare una 4 elementi, a me mi serviva per altre cose, per ricevitore eccetera. Anche questo barret lo vende lo stesso Radio Supply, ma c'ho tante di quelle, quello ti dà anche il container, il gruppo di trugini, qualunque cosa, attrezzature anticoso, nucleari, per fare le misurazioni, vende di tutto e più, veramente io ogni tanto ci vado a guardare, veramente c'ha bellissime cose. Poi ci sono apparati anche magari di vecchia generazione, strumentazione Rode Swartz, Rackal, cose Evert Packard, cioè cose che costavano milioni e milioni, ti danno a prezzi ragionevoli, analizzatori di spettro, misuratori di campo eccetera eccetera, strumenti che neanche so esistenza cosa possono servire, c'hanno di tutto quello. Guarda, io stavo guardando dei prezzi di apparati della, è uscito l'ultimo tra l'altro della Rode Swartz, guarda, ti dico solo che quello è un apparato d'élite, mentre un non apparato d'élite, come può essere un apparato sempre a caffè, stiamo parlando di una nave, ecco, quindi un apparecchio, che ne so, della Furuno oppure della Shanti eccetera, io ho chiesto i prezzi e mi hanno detto guardi, solo vuole da 150 watt viene credo 12.000 euro, una cosa del genere. Un Rode Swartz di seconda mano costa 35.000 euro all'incirca. Vedi un po' tu, ecco, regolati come proporzioni. No, ma Rode Swartz stiamo parlando del top del top. Allora, abbiamo fatto una prova, cioè gli apparati di strumentazione per misurare i punti di petitorio, eccetera, eccetera. Uno che conosco, lui c'ha uno della Promax. Io ce l'ho anche io Promax, però è più piccolino il suo, più recente, l'ha pagato pare 6-7.000 euro. E ha fatto le prove di confronto, c'era quelli di Mediaset, il furgone della Mediaset, lui l'ha pagato, non so se 6 o 7.000 euro. C'era quello dentro della Rode Swartz professionale, 300.000 euro costa. Un apparecchio, stiamo parlando per uso in moto, ma molto particolare, per misurare indicazioni super precise. Ha fatto i confronti per vedere quanto c'era di tolleranza e dice guarda, l'apparato mio se l'ha cavicchiata abbastanza bene confrontato a un apparecchio che costa 10 volte 20 volte di più. Sono strumenti da laboratorio e quelli, e tieni presente che adesso la Rode Swartz è stata assorbita da Littera, che ha la faccia della Motorola, quindi ho detto tutto lì. Gianni, scusa ancora, riprendi, dai. Che riprendo, dai. Stavo parlando di apparecchi militari, io apparecchi militari non è che ne conosca molti, anche perché io mi sono formato nel 27, ero al baro oltre. A me piace la 27, no, mi piace vederli magari, ma non militare, a dirli, capito? Invece Roberto è appassionato di roba antica, di roba di vecchia era, e ci sta. No, io di radio ne avrò forse più di 50-60 di radio, a parte queste, diciamo, queste che stiamo utilizzando qua. Io parlo radio d'epoca, dalle radio d'epoca c'ho anche un ricevitore, trasmettitore diciamo dopoguerra montato su un carro armato che peserà 40 kg, una bestia, tutto con connettori stranissimi, potenziometri, commutatori. montato, e poi ne ho un altro montato su un elicottero negli anni 70, 60-70, vice trasmettitore, che ho trovato la persona che ce l'aveva, un elicotterista, mi ha detto questo è quello che c'avevo io, magari non era lo stesso tipo che aveva sotto lui, però il modello era quello, questo è il mio, infatti lo conosceva benissimo, tutto nero in ferro, che se ti cade sul piede ti spacca, ti frattura il piede, però quello più bello è quello dell'elicottero, con questi cacchi di manopoloni per girare, spostati, allineati, spettacolare. Ma sono funzionanti, no? Erano per funzionanti, poi io veramente quelle vanno a tensioni particolari, ma arrivano a 48 volt, non lo so, e poi ci vanno l'alimentatore suo dedicato, c'è anche il microfono dell'elicotterista attaccato col parlascolta, che c'hai la, no parlascolta, che con le cuffie c'ha il microfono incorporato, quelle tipo pelle che c'erano durante la seconda guerra mondiale, poi c'è una marea di radio, non ne parliamo, cosa c'ho di altri tipi di radio, e più c'ho anche l'autoradio di macchine, sono collezionista anche di autoradio di macchine, ce ne ho di tutte le epoche, anche a valvole, belline anche a valvole, la cosa più ridicola quando le vedi a valvole, le radio, ma ti metti le mani e viene da ridere. Siamo belline, bisogna avere solo spazio, queste cose tu già hai di spazio. Come le hai sistemate? Le hai messe in vetrina o come le hai sistemate? Allora, parte diciamo di queste autoradio e cose del genere, diciamo la maggior parte le ho montate in vetrina, ce n'è in officina diciamo, però ce ne sono talmente tante per cui non è che le vedi tanto bene perché sono sovrapposte, e poi le radio quelle altre, abbiamo ricevitori a onde medie, onde corte, onde lunghe, diciamo dagli anni 30 in poi, quelle sono un po' ingombranti, ne ho qualcuna a casa, qualche decina a casa, poi ce l'ho da un'altra parte perché ci sono anche quelle grosse, e ce l'ho, infatti quando avrò tempo e cosa dovrò fare tipo librerie e cose del genere, cercare di metterle in ordine, perché ci sono poi quei mobiloni grandi che hanno giradischi, la radio eccetera eccetera, ne ho uno a casa che quello forse da museo, un pezzo da museo, che quella è una cosa peserà più di 100 kg, ma una cosa, forse Claudio l'ha visto, qualcuno di qua degli amici l'ha visto, ma è una cosa, poca gente ce l'ha un pezzo del genere, è stato costruito a Genova questo apparecchio di un giudice negli anni 50, proprio all'albore della televisione, perché c'ha la televisione pure questa roba qua, ma è una cosa, c'ha un registratore a filo d'acciaio, infatti molti neanche sanno cosa siano, registratore col mixer, ci sono tre radio, perché c'ha tre tipi di radio, e nel frontale c'ha giradischi, registratore a filo, microfono, c'ha tutto, è una cosa spettacolare, non perché ce l'ho io, è un pezzo da museo questo. Io l'avevo visto, l'unica volta che c'ho venuto a presenza me l'avrei fatto vedere, me lo ricordo benissimo. E poi come lo apri sopra è tutto sotto chiave, c'ha dei commutatori con una chiave, che c'è tutte le funzioni, ci sono le spie con le luci che ha commuti, poi sopra come lo apri si accende la luce del complesso, ma tutto il legno massiccio, forse l'hai visto, infatti hai detto bene, tu sei uno dei pochi che l'ha visto, però è un pezzo veramente, non perché ce l'ho io, degli intenditori sono rimasti a bocca aperta quando l'hanno visto, poi chi l'ha costruito è tutto fatto, fotografato, tutte le radio che ci sono dentro, gli schemari, sono le valvole, cioè quando è stato costruito è stato fotografato all'interno, per cui vedi tutte le valvole fotografate e sopra scritto il tipo di valvola, il circuito di alimentazione, cosa serve eccetera, è un libricino, ci sono tutte queste immagini qua, ed è un pezzo, ripeto, poi sotto ci sono tre altoparlanti grossi, saranno da 30 centimetri per farlo funzionare, ma pesa più di 100 kg questa roba. Ehi, me lo ricordo, sì, me l'hai fatto vedere, che c'è questa cosa, stavo per dire, ma chi è quello col televisore? Ma e quelli lì sono funzionanti, non li attacchi quindi. Allora, l'ho attaccato, però adesso sono da un po' di anni che non lo utilizzo, perché bisogna stare attenti quando li alimenti, questi vanno alimentati piano piano, a partire da 30-40 volte, fino ad arrivare a tensione nominale, se no li bruci, perché i condensatori sono a bagno d'olio, eccetera, eccetera, se arriva a tensione troppo alta bruci i trasformatori e fai danno, per cui bisogna stare attenti, mi sono fatto procurare un variac che parte da 0 a 300 volt, per cui quando li fai funzionare li fai andare 2 o 3 ore, li fai andare a 60 volt, poi sali piano piano la tensione in modo che non fai danno, perché bisogna stare molto attenti, infatti se vi capitano radio d'epoca a valvole quando sono ferme da tanto tempo, se non fai questa operazione qua le bruci immediatamente. Vabbè, bisogna anche conoscere, bisogna accarezzare queste radio qua. No, sono passioni, dai, passioni, adesso mi sono fermato, ma prima ne compravo tante di queste cose, allora ce la basta, mi sono fermato, perché ho tante, già lo sapete, ho tante tante passioni, per cui bisogna moderarsi per certe cose, se no non ne c'è più, però conosco gente che ci ha buttato un saccaccio di soldi, io mi sono fermato, me ne ho tenuto qualcuna, però se mi capita qualche occasione proprio a prezzo tracciato, non me lo faccio scappare, infatti vado sempre in giro per i mercatini, queste cose qua, poi qualche amico, magari se c'ha qualcosa facciamo degli scambi, però mi ragazzi una regolata, se no buh, non esci più, diventa a casa museo, alla fine, buh, è finito. Ok, facciamo riprendere, scusa Gianfranco, del monopolio, avanti a te. No. Quando si fa un discorso deve essere pieno, quindi è positivo, non è che... No, ti volevo dare una notizia a proposito di roba antica. Stavo leggendo ieri tutto un articolo, diciamo, sul Titanic, che c'aveva quel famoso trasmettitore Marconi a scintilla, quindi era alimentato da un generatore a corrente alternata, che quindi in antenna andavano esattamente 5 kW, e in più c'era anche qualcosa di ausiliario, ecco. Poi c'erano le batterie, condensatori per il stato telegrafico e tutta quella roba lì. Beh, lo sai che una corte federale americana ha dato a questa azienda l'autorizzazione a sfasciare praticamente il Titanic, perché poi anche se sott'acqua era abbastanza intatto, però a sfasciarlo con la possibilità di recuperare proprio questi apparati radio, che alla fine finiranno all'asta e verranno sicuramente comprati dal solito emiro, dal solito riccone di turno. E fino adesso le varie nazioni interessate, quindi Inghilterra, Stati Uniti e Francia, avevano sempre detto no. Quindi ti puoi immaginare il danno, oltre ad essere un grave precedente, perché a un certo punto se c'è un sommergibile, un botto, se trovano anche un sommergibile italiano, eccetera, è come entrare dentro una tomba, no? Senza rispetto, sfasciare tutto e portarsi via i reperti. E questa è una cosa abbastanza scandalosa. Tu pensa che una radio di un botto, ad esempio, non so se lo sai, ma era talmente grande, talmente pesante che si installava in fase di costruzione proprio dal sottomarino, perché di lì c'era giusto lo spazio per entrare in siluri e basta. Quindi questo ti volevo dire, perché è un articolo, ripeto, che ho letto proprio ieri tra le tante cose. Sì, diciamo, ho letto qualcosa, tenete presente che l'hanno già deturpato, diciamo, il Titanic, la cosa difficile è che stiamo parlando di 1500 metri di profondità, stanno andando con i robot, i micro robot, sono entrati nella cassaforte, non hanno detto che poi tra l'altro non c'era niente di interessante, però molti piatti, molti oggetti, posaterie, eccetera, eccetera, li hanno già recuperati e li hanno messi all'asta, i Lloyd's di Londra, le cose, quelli che fanno le aste, li hanno venduti a prezzi fuori mercato. Di qualche scemo, dove c'è il piatto del Titanic, eccetera. Io ho un amico che, siccome non so se lo sapete, il Titanic non è nato come nave nuova, è stato cambiato il nome, si chiamava con un altro nome, per cui c'è tutto un giro vizioso, leggetevi la storia, guardatevi il video, la vera storia del Titanic, che pochi lo sanno, non è una nave nuova, è stata cambiata soltanto il nome, c'aveva un altro nome, il Titanic, per cui era una nave che aveva avuto già altri problemi, era in riparazione, eccetera, eccetera. C'ho un amico, siccome è stato costruito nei cantieri di, non so se di, non mi ricordo se di Manchester e cose, c'ha un oblò del Titanic che l'ha dato, lo stava vendendo prima questo, io diciamo, non mi sono neanche interessato che forse me l'avrebbe anche regalato, questo c'ha un sacco di roba, questo ha lavorato in tutto il mondo, di Genova, anche se viveva qua a Sassari, a Porto Torres, per l'esattezza, l'ha donato uno di quegli oblò del Titanic, identico al Titanic, dalla ditta che lo produceva per farlo al Titanic, la stessa nave, c'era un'altra nave uguale al Titanic nei cantieri, non mi ricordo se erano, adesso non vorrei dire una fesseria, ma c'è o qualcosa del genere, e lui c'aveva l'oblò proprio del coso di questa nave. Scusate, ma te l'hai cambiata la suoneria, ci buttiamo lì profondo rosso, anche qui. Vi siete meravigliati la suoneria. No, insomma, il silenzio, non so, la donata, la tromba, la carica, Puglia, hai fatto bene in realtà, tu devi fare solo una considerazione, anche noi diciamo che abbiamo tante radio, tante possibilità eccetera, poi alla fin fine se ci vogliamo fare una chiacchierata siamo tutti qua di nuovo, perché è difficile abbandonare le origini comunque, e anche perché insomma la chiacchierata è più varia, più vasta, ecco. Sono rientrato per salutare, dai, mi hanno chiamato, devo andare via, la sirena l'avete sentita, avanti Gianni. Ciao Robert, io ne mettevo una profondo rosso, per una persona che non più di quando mi chiamavo mi giocava profondo rosso. Allora, non per dire, scusa di nuovo il monopulio Gianfra, non per dire, questa suoneria c'era un'altra persona e questo ha fatto brutte figure e foto, anche io qualche volta le ho fatte in banca, in posti dove c'è gente, tac, una volta in banca mi sono uscito in bocca dei denti, vigili, come si chiama, di protezione, poi tutti cagati sotto, dentro la banca sembrava che ci fosse una rapina, dove la gente spaesata, perché trovi in un momento, senti questa sera forte, sembra che c'è una rapina, tutti spaventati, terrorizzati, io facendo finta di niente. Ciao ciao, e così è capitato, però c'è di buono, non lo aggromera nessuno, in situazione di pericolo se tu lo accendi, metti antipanico, la usi, dai. Ok, vi faccio riprendere a Gianfranco per i saluti, io vi lascio che devo fare cosa, ciao ciao a tutti. Ciao ciao, buona serata. Avanti, ciao. Ciao Roberto, buona serata, le prossime. Capito già, origini alla fin fine, a prescindere dalle radio che c'hai e che compri. Puoi dirlo già. Non ho capito. Puoi dirlo già, lo che si torna all'origine. Certo, ciao Bruno, ben sentito, dai. Gianfra, Bruno Lagano, saluto. Sì, ciao Bruno. Ben ascoltato. Tra l'altro, se non ricordo male, noi forse ci conosciamo anche di vista, perché anch'io ero un grande amico di quella persona che non c'è più, e niente, ma sicuramente non l'avrei visto tante volte che ero a casa sua, tutto lì, e forse ci ha anche presentati, però io adesso proprio non mi ricordo se sarà qualche altro cognato o roba del genere. Vabbè, quando si andava lì da sera, si andava a vedere con i magari c'è anche qualche anno fa, perché poi io ho mollato tutto, e per quello che ho fatto la battaglia, se sono le origini, insomma, siamo più rilassati. Ma molti arrivano, spariscono, vanno. Noi siamo della serie ritornano comunque. Vabbè, io non ho mai smesso, diciamo, anche se non avevo possibilità di andare dappertutto, però ho sempre tenuto per una questione anche di ricordo di giovinezza, ecco, diciamola così. Avanti Gianni. Eppure c'è gente che non lo capisce. Ma una persona mi ha detto, sempre deve avere fatto il baracchino se ci vuota adesso. Ma tu figurati che io mi occupo proprio di, sono nel campo dell'informatica, e quindi qualcuno mi dice, ma tu WhatsApp, no, anche un venditore, guardi, ti mando le foto del corpo, no, non ce l'ho. Ma come non ce l'ha? Non ce l'ho, sono fuori dal coro, come si usa a dire, no? A me quelle applicazioni, quelle cose, Facebook, eccetera, non le voglio neanche sentire parlare. Io tutto ciò che ti tocca adesso. Mi devo aggiornare, bisogna aggiornarsi, c'ho WhatsApp, c'ho TikTok, c'ho Messenger, c'ho Facebook, c'ho... Scusa Bruno, Gianni, quelle sono tutti gadget, ecco, il termine giusto è gadget, per la gente che non conosce, io ripeto ci lavoro anche con queste cose, c'è gente che fa il programma. consigliato a Marco di guardarsi uno sceneggiato che sta andando su Rai Play, che si chiama Stalker. Tu devi vedere questo ragazzo, cosa tutto ha potuto fare grazie a delle applicazioni tipo quelle, di tutto di più, è una cosa allucinante. Quindi uno che tiene un pochino la privacy, perché non penso che a nessuno faccia piacere di aprire la propria porta di casa, e lì si apre realmente in maniera virtuale, a far vedere tutto quello che c'è dietro, insomma, ci siamo capiti. Riprendi Bruno. Ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare, ascoltare